L'intelligente Maria. Molto tempo fa, in un grande regno, viveva un mercante chiamato Gobin. Gobin era il commerciante più ricco del paese e stava vicino al palazzo. Aveva tre figlie. La figlia maggiore si chiamava Elena, la seconda si chiamava Greta e la più giovane si chiamava Maria. Maria era la più bella di tutte. Un giorno il re chiamò il mercante al palazzo. Salute, Vostra Altezza. Vieni, Gobin, benvenuto. Altezza, mi avete fatto chiamare? Sì, Gobin. Il fatto è che abbiamo stretto un enorme accordo commerciale con il regno a noi vicino. Abbiamo bisogno di qualcuno di fiducia, in grado di portare lì i beni in sicurezza. E voglio che sia tu a fare questo per noi. Sentendo le parole del re, Gobin si perse nei suoi pensieri. Era preoccupato per le sue figlie, perché non le aveva mai lasciate da sole prima. Qual è il problema, Gobin? Perché sei così silenzioso? Niente di grave, Vostra Altezza. È solo che se vado le mie figlie rimarranno sole a casa. Sono solo preoccupato per loro. È tutto qui. Non ti preoccupare. Quando te ne sarai andato, le tue figlie verranno trattate molto bene. Andrà tutto bene. Sì, Altezza. Gobin non voleva lasciare le sue figlie da sole, ma non poteva rifiutare gli ordini del re. Andò a casa per salutare le sue figlie. Trovò tre vasi di rose. Diede un vaso a ciascuna delle sue figlie e disse loro: «Devo fare un viaggio di lavoro. Non permettete a nessuno di entrare in casa. Se lo farete, verrò a saperlo grazie a questi vasi». «Niente andrà male, padre. Non preoccuparti durante il tuo viaggio». Gobin salutò le sue figlie e se ne andò. Il giorno dopo, il re andò a casa sua con due dei suoi amici. Vedendolo venire a casa loro, Maria disse alle sue sorelle: «Andiamo in cantina, prendiamo vino per il re. Porterò la chiave, Elena porterà la lanterna e Greta prenderà la bottiglia». Ascoltando le parole di Maria, il re disse: «No, non disturbatevi. Non vogliamo nulla. Stiamo bene». «D'accordo. Hai sentito, Maria? Il re non vuole niente». «Noi due non andremo da nessuna parte». «Va bene, voi non venite, ma certamente io me ne andrò». Maria se ne andò. Corse a casa di uno dei suoi vicini. «Apri la porta! Apri la porta!» «Chi è? Chi è venuto così tardi nella notte?» «Zia, sono Maria. Per favore, apri la porta!» «Oh, Maria! Cosa ti porta qui così tardi nella notte?» «Zia, ho litigato con mia sorella. Per favore, lasciami dormire in casa tua questa notte». «Oh, d'accordo. Entra, vieni, ragazza mia». Maria passò tutta la notte nella casa della vecchia signora. Il re si arrabbiò molto nel vedere che Maria non tornava. Quando Maria tornò a casa la mattina, vide che le rose nei vasi delle sue sorelle erano appassite perché avevano disobbedito al loro padre. Andò nella stanza della sorella maggiore. Vide Elena in piedi vicino alla finestra che dava sul giardino del palazzo. «Maria, sei tornata. Guarda, le mele in giardino sembrano così belle. Devono essere così deliziose. Per favore, vai a prenderne un po' per me». «Elena, sei cresciuta ma ti comporti ancora come una bambina. Bah! Per favore, Maria, vai». «Va bene, andrò». Maria saltò dalla finestra e andò in giardino a cogliere le mele. Mentre tornava a casa, Elena urlò: «Maria, lì, poco più avanti, ci sono alberi pieni di limoni. Prendine un po', per favore». Ancora una volta Maria corse verso il giardino e questa volta, proprio mentre stava per tornare dopo aver colto i limoni, il giardiniere la vide. Le corse dietro per prenderla. Fermati! Dove pensi di andare con quei limoni? Fermati! Aspetta che ti metta le mani addosso! Ti insegnerò una lezione! Maria spinse forte il giardiniere. Cadde così forte che per un po' di tempo non riuscì ad alzarsi e Maria scappò da lì. Nessuno riuscì a scoprire chi fosse il ladro e dove fosse scappato. Maria arrivò a casa, diede le mele e i limoni ad Elena e la rimproverò. Hai visto in che pasticcio mi sono cacciata per colpa tua? D'ora in poi non chiedermi di fare più niente, capito? Maria se ne andò. Quello che aveva detto a Elena non fece alcuna differenza. Elena iniziò semplicemente a godersi le sue mele. Che mele deliziose! Grazie a Dio Maria le ha prese. Come avrei potuto assaggiarle altrimenti? Il povero giardiniere deve essere ancora lì che urla di dolore. Il giorno seguente all'altra sorella di Maria era venuta voglia di banane. Chiese a Maria di andare a prenderle per lei. A causa di ciò che era successo il giorno prima, Maria non voleva andare. Ma poiché sua sorella insisté tanto, decise di andare. Questa volta, quando andò, il re stava passeggiando nel giardino. Vide Maria. Oh, quindi sei tu. Ora sarai punita. Il re pose a Maria una serie di domande e Maria confessò. Il re le disse: per il crimine che hai commesso ti punirò esattamente a casa tua. Vieni con me. Il re si diresse verso casa sua. Maria lo seguì. Il re continuò a guardare dietro di sé per accertarsi che Maria non scappasse. Ma all'improvviso, quando si voltò, vide che Maria era sparita senza lasciar traccia. Venne cercata in tutta la città, ma non fu trovata da nessuna parte. Il re si infuriò moltissimo. Da allora fu sempre di cattivo umore e presto si ammalò. Per mesi non ci furono miglioramenti nelle sue condizioni. Nel frattempo, le sorelle di Maria si erano sposate con i due amici del re. Adesso avevano anche dei figli. Un giorno Maria entrò di soppiatto nella casa della sorella maggiore. Prese entrambi i suoi figli e corse via con loro. Mise i bambini in un bel cesto di fiori e li coprì con molti fiori in modo che nessuno potesse vederli. Poi si vestì da ragazzo, si mise la cesta sulla testa e andò verso il palazzo gridando: chi porterà questi fiori al re? Che è malato per amore? Che è malato per amore? Chi porterà questi fiori al re? Il re, che stava riposando nel suo letto, udì le grida. Chiamò la guardia che era fuori dalle sue stanze. Ascolta, entra. Compra i fiori dall'uomo che sta urlando. I fiori sono fuori. La guardia andò a comprare il cesto di fiori e lo diede al re. Non appena il re tolse il coperchio dal cestino, sentì qualcuno piangere. Vide due bambini nel cestino, tra i fiori. Il suo cuore si riempì d'amore. Si chiese come avrebbe ripagato Maria per questo regalo, ma poi si ricordò di come Maria l'aveva insultato e di nuovo si infuriò. Decise di vendicarsi di Maria. Proprio in quel momento arrivò una guardia. Vostra Altezza, il mercante che avevate mandato in quel viaggio d'affari è tornato. D'accordo. Digli di presentarsi in tribunale domani con un cappotto fatto di pietre. E se non lo farà, lui sarà punito. Sì, Vostra Altezza. Vedendo le condizioni della sua casa, il mercante fu molto triste. Le sue figlie gli avevano promesso che niente sarebbe andato storto. Ma non vide nemmeno una delle sue figlie. Venne a sapere che entrambe le sue figlie maggiori si erano sposate senza il suo permesso. Arrivò la guardia. Ascolta, il re ha ordinato che domani ti presenti in tribunale con un cappotto di pietre fatto su misura per lui. Se non lo farai, verrai punito. Il mercante si lamentò per come le cose fossero andate. Da una parte, nessuno sapeva dove fosse Maria, e dall'altra parte era spaventato per l'ordine del cappotto. Era impossibile per lui preparare il cappotto in un solo giorno. Come posso preparare il cappotto in un solo giorno? Padre, non preoccuparti per il cappotto. Devi solo prendere questo gessetto e dire che sei lì per prendere le misure del re per il cappotto. Il commerciante non capì, ma aveva fiducia in Maria. Così andò a palazzo con il gessetto. Sei venuto a mani vuote? Dov'è il cappotto? Vostra Altezza, per favore, perdonatemi, ma non ho potuto fare il cappotto. Bene, allora preparati a morire. No, Vostra Altezza, per favore, perdonatemi, lasciatemi andare. Se vuoi salvarti, dovrai consegnarmi tua figlia. Il mercante tornò a casa senza dire nulla. Era molto triste al pensiero di dover consegnare sua figlia al re. Quando arrivò a casa, vide Maria seduta lì ad aspettarlo. Padre, cos'è successo? Bambina mia, che cosa devo fare? Il re mi ha ordinato di consegnarti a lui invece del cappotto. Non preoccuparti, padre. Prendi una bambola che mi assomigli. La testa della bambola dovrà avere un filo avvolto intorno alla testa, tirando il quale io risponderò sì o no. Il giorno seguente il mercante raggiunse il palazzo con Maria. Il re aveva ordinato che Maria venisse mandata nelle sue stanze. Quindi i soldati portarono Maria nelle stanze del re. Maria aveva nascosto la bambola tra le pieghe dei suoi vestiti. Appena le porte si chiusero, estrasse la bambola dalle pieghe del vestito e si nascose sotto il letto prendendo il filo tra le mani. Maria, spero che tu stia bene. Maria mosse la testa della bambola. Il re continuò a farle domande e le fece notare tutti i suoi errori. Maria annuì con la testa in segno di sì per tutti i suoi errori. Ecco perché ti condannerò a morte. Il re prese la spada e le tagliò la testa. Non appena la testa cadde a terra, il re sentì qualcuno baciargli i piedi. Un tale amore anche dopo la morte. Cosa ho fatto? Ti ho uccisa con queste mani e adesso nemmeno io posso vivere ancora. Proprio mentre il re stava per tagliare la sua testa, Maria uscì da sotto il letto e il re la abbracciò. Così si sposarono e vissero felici e contenti.